Molto prima che si calmasse la sua impazienza di marito novello, Esteban Trueba dovette tornare alle Tre Marie, dove non aveva più messo piede da oltre un anno, e che, nonostante le cure di Pedro II García, reclamavano la presenza del padrone. La proprietà, che prima gli sembrava un paradiso, adesso era diventata una molestia. Guardava le mucche inespressive che ruminavano nei campi, il lento lavoro dei contadini che ripetevano gli stessi gesti ogni giorno per tutta la vita, l'immutabile cornice della cordigliera innevata e la fragile colonna di fumo del vulcano, e si sentiva come prigioniero. Mentre stava in campagna, la vita nella grande casa dell'angolo cambiava per adeguarsi a una dolce quotidianità senza uomini. Ferula era la prima a svegliarsi perché le era rimasta questa abitudine di alzarsi all'alba dall'epoca in cui vegliava accanto alla madre malata, ma lasciava dormire sua cognata sino a tardi. A metà mattina le portava personalmente la colazione a letto, apriva le tende di seta azzurra per far entrare il sole attraverso i vetri, riempiva la vasca da bagno di porcellana francese dipinta a ninfee, mentre Clara aveva il tempo di scrollarsi di dosso la sonnolenza, salutando a turno gli spiriti presenti, avvicinandosi il vassoio spalmando le fette tostate con la cioccolata densa. Poi la tirava fuori dal letto, accarezzandola con gesti da madre e riferendole le notizie piacevoli del giornale, che ogni giorno erano meno, sicché doveva riempire le lacune con pettegolezzi sui vicini, dettagli domestici e aneddoti inventati che Clara trovava molto carini. E 5 minuti dopo non ricordava più. Per cui era possibile raccontarle le stesse cose diverse volte e lei si divertiva come se fosse stata la prima volta. Ferula la portava a spasso perché prendesse aria. Fa bene alla creatura. A fare compere perché quando nasceranno gli manchi niente e abbia gli indumenti più fini del mondo. A pranzo al club del golf perché tutti vedano come ti sei fatta carina da quando ti sei sposata con mio fratello. A teatro perché non passi tutto il giorno chiusa in casa. E Clara si lasciava guidare con una dolcezza che non era stupidaggine, bensì distrazione, e consumava tutta la sua capacità di concentrazione in inutili tentativi di mettersi in contatto telepatico con Esteban, che non riceveva i messaggi, e perfezionando la propria chiaroveggenza. Per la prima volta da che poteva ricordare, Ferula si sentiva felice. Era più vicina a Clara di quanto non lo fosse stata con nessuno, neppure con sua madre. Una persona meno originale di Clara avrebbe finito per essere infastidita dalle moine eccessive e dalla costante preoccupazione di sua cognata, o avrebbe ceduto al suo carattere dominante e meticoloso, ma Clara viveva in un altro mondo. Ferula detestava il momento in cui suo fratello tornava dalla campagna e la sua presenza riempiva tutta la casa, infrangendo l'armonia che si era stabilita durante la sua assenza. Con lui in casa doveva mettersi in ombra ed essere più prudente nel modo di rivolgersi ai servitori, così come nelle premure che prodigava a Clara. Ogni notte, quando gli sposi si ritiravano nelle loro stanze, si sentiva invasa da un odio sconosciuto che non poteva spiegare e che le riempiva l'animo di funesti presagi. Per distrarsi, riprendeva la mania di recitare il rosario nei rioni popolari e di confessarsi con Padre Antonio. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato, ti ascolto, figliola. Padre, non so come cominciare. Credo che quello che ho fatto sia peccato. Della carne, figliola? Ah, la carne è secca, padre, ma lo spirito no. Mi tormenta il demonio. La misericordia di Dio è infinita. Oh, lei non conosce i pensieri che ci possono essere nella mente di una donna sola, padre, una vergine che non ha conosciuto maschio, e non per mancanza di occasioni, bensì perché Dio ha mandato a mia madre una lunga malattia e ho dovuto curarla. Quel sacrificio è registrato in cielo, figlia mia. Anche se ho peccato col pensiero, padre? Bene, dipende dal pensiero. Di notte non posso dormire. Mi sento soffocare. Per calmarmi mi alzo e cammino nel giardino e vago per la casa. Vado nella stanza di mia cognata, accosto l'orecchio alla porta e talvolta entro in punta di piedi per vederla quando dorme. Oh, sembra un angelo. Mi viene la tentazione di infilarmi nel suo letto per sentire il tepore della sua pelle e del suo fiato. Prega, figliola, prega, la preghiera aiuta. Aspetti, non le ho detto tutto. Mi vergogno. Non devi vergognarti di me perché io sono solo uno strumento di Dio. Beh, quando mio fratello torna dalla campagna è molto peggio, padre. A nulla mi serve la preghiera e non riesco a dormire, sudo, tremo. E infine mi alzo e giro per la casa al buio, scivolando lungo i corridoi, molto attenta a non far scricchiolare il pavimento. E li ascolto attraverso la porta della loro camera da letto. Una volta sono riuscita a vederli perché la porta era rimasta socchiusa. Oh, non posso raccontarle quello che ho visto, padre, ma deve essere un peccato terribile. Non è colpa di Clara, lei è innocente come un bambino. È mio fratello che la costringe, lui verrà sicuramente dannato. Solo Dio può giudicare e dannare, figliola. Che cosa facevano? E allora Ferula poteva perdere mezz'ora nei dettagli. Era una grande narratrice, sapeva fare le pause, misurare il tono, spiegare senza gesti, dipingendo un quadro così vivido che l'ascoltatore aveva l'impressione di stare vivendolo. Era incredibile come poteva percepire dalla porta socchiusa la qualità dei tremori, l'abbondanza degli umori, le parole mormorate all'orecchio, gli odori più segreti, un prodigio, davvero. Dopo aver sfogato quei tumultuosi stati d'animo, rincasava con la sua maschera da idolo impassibile e severa e via a dare ordini a contare le posate, decidendo il cibo, infilando la chiave, ordinando: mi metta questo qui, non lo metta, cambiate i fiori dei vasi, li cambiavano, lavate i vetri, fate stare zitti quegli uccelli del diavolo, che il cinguettio non lascia dormire la signora Clara. E con tutto questo baccano le si spaventerà la creatura ed è possibile che nasca rintontita. Niente sfuggiva ai suoi occhi vigili ed era sempre in moto, contrariamente a Clara, che trovava tutto molto carino e per lei era lo stesso mangiare tartufi ripieni o minestra avanzata, dormire su un materasso di piume o seduta su una seggiola, fare il bagno in acqua profumata o non fare affatto il bagno. A mano che avanzava il suo stato di gravidanza, sembrava si andasse staccando irrimediabilmente dalla realtà, ripiegandosi su se stessa in un dialogo segreto e continuo con la sua creatura. Esteban Trueba voleva un figlio che portasse il suo nome e trasmettesse la sua discendenza al nome della bambina. È una bambina e si chiama Blanca, disse Clara fin dal primo giorno in cui annunciò il suo stato. E così fu. Il dottor Cuevas, nei confronti del quale Clara aveva finalmente perso ogni paura, calcolava che il parto avrebbe dovuto avvenire a metà ottobre, ma a metà novembre Clara continuava a portare in giro una pancia enorme, in stato di semisonnambulismo. Sempre più distratta e stanca, asmatica, indifferente a tutto quello che la circondava, compreso suo marito, che talvolta non riconosceva nemmeno e gli chiedeva che cosa desidera quando se lo trovava a fianco. Allorché il medico ebbe scartato ogni possibilità di errore nei suoi calcoli e fu evidente che Clara non aveva alcuna intenzione di partorire naturalmente, procedette ad aprire il ventre della madre e ad estrarre Blanca, che si rivelò una bambina più pelosa e più brutta del normale. Esteban ebbe un brivido quando la vide, convinto di essere stato schernito dal destino e invece del Trueba legittimo che aveva promesso a sua madre sul letto di morte di aver generato un mostro e per colmo di sesso femminile. Ispezionò la bambina personalmente e constatò che aveva tutte le sue parti al posto giusto, perlomeno quelle visibili a occhio nudo. Il dottor Cuevas lo consolò con la spiegazione che l'aspetto ripugnante della creatura era dovuto al fatto che aveva passato più tempo del normale dentro la madre, alla sofferenza del cesareo e alla sua costituzione piccola, magra e bruna e alquanto pelosa. Clara invece era affascinata da sua figlia. Sembrò svegliarsi da un lungo torpore e scoprire la gioia di essere viva. Prese in braccio la bambina e non la depose mai. Girava con lei attaccata al petto, allattandola di continuo, senza orario fisso e senza preoccuparsi delle buone maniere o del pudore, come un'indiana. Non volle fasciarla, tagliarle i capelli, farle i buchi nelle orecchie o assumere una balia perché la nutrisse e tantomeno ricorrere al latte di qualche laboratorio come facevano tutte le signore che potevano permettersi questo lusso. Non accettò neppure il consiglio della nana di darle latte di mucca diluito in acqua di riso perché aveva concluso che se la natura avesse voluto che gli uomini fossero allevati così, avrebbe fatto in modo che i seni femminili secernessero quel tipo di prodotto. Clara parlava alla bambina in ogni momento, senza usare un linguaggio di vezzi e diminutivi, ma in corretto spagnolo, come se avesse dialogato con un'adulta, nella stessa forma pacata e ragionevole con la quale parlava agli animali e alle piante. Convinta che se aveva avuto un buon risultato con la flora e la fauna, non c'era motivo che non dovesse fare lo stesso anche con la bambina. La combinazione di latte materno e conversazione ebbe la virtù di trasformare Blanca in una bambina sana e quasi bella, che non assomigliava in nulla all'armadillo di quando era nata. Poche settimane dopo la nascita di Blanca, Esteban Trueba poté constatare, attraverso i giochi nel veliero, nell'acqua calma di seta azzurra, che sua moglie non aveva perduto con la maternità l'incanto e la buona disposizione per fare l'amore, bensì il contrario. Da parte sua, Ferula, troppo impegnato a occuparsi della bambina, che aveva polmoni formidabili, carattere impulsivo e appetito vorace, non aveva tempo per andare a pregare nei rioni popolari, per confessarsi con Padre Antonio e molto meno per spiare dalla porta socchiusa. 4. Il tempo degli spiriti. A un'età in cui la maggior parte di bimbe e bimbi va in giro con pannolini e a quattro gambe, balbettando incoerenze e perdendo bave, Blanca sembrava una nana saggia. Camminava a balzelli, ma sulle due gambe, parlava correttamente e mangiava da sola, a causa dell'abitudine di sua madre di trattarla come una persona adulta. Aveva tutti i denti e cominciava ad aprire gli armadi per buttarne all'aria il contenuto, quando la famiglia decise di passare l'estate alle Tre Marie, che Clara non conosceva se non per sentito dire. In questo periodo della vita di Blanca, la curiosità era più forte dell'istinto di sopravvivenza e Ferula le andava sempre dietro di corsa per evitare che precipitasse dal secondo piano, si infilasse nel forno e ingoiasse il sapone. L'idea di andare in campagna con la bambina le sembrava pericolosa, stancante e inutile, dato che Esteban poteva sistemarsi da solo alle Tre Marie, mentre loro avrebbero potuto godersi la vita civile della capitale. Ma Clara era entusiasta. La campagna le sembrava un'idea romantica, perché non era mai entrata in una stalla, come diceva Ferula. I preparativi del viaggio tennero occupata tutta la famiglia per oltre 2 settimane e la casa si riempì di bauli, di ceste, di valigie. Affittarono un vagone speciale del treno per sistemarvi l'incredibile bagaglio e la servitù che Ferula aveva considerato necessario portare, oltre alle gabbie degli uccelli che Clara non aveva voluto abbandonare, e alla cassa di giocattoli di Blanca, piena di arlecchini meccanici, figurine di maiolica, animali di pezza, ballerine automatiche e bambole con capelli veri e articolazioni snodate che viaggiavano insieme ai loro vestiti, alle carrozze e alle porcellane. Vedendo quella folla agitata e nervosa e quella confusione di masserizie, Esteban si sentì sconfitto per la prima volta in vita sua, soprattutto quando scoprì tra i bagagli un Sant'Antonio a grandezza naturale con gli occhi strabici e i sandali sbalzati. Guardava il caos che lo circondava, pentito della decisione di viaggiare con moglie e figlia, chiedendosi come fosse possibile che lui avesse bisogno delle sue due valigie per girare il mondo e loro, al contrario, si portassero appresso quel carico di masserizie e quella processione di domestiche che nulla avevano a che vedere con lo scopo del viaggio. A San Lucas presero 3 carrozze per farsi condurre alle Tre Marie, avvolti in una nube di polvere come zingari. Nel cortile, in fondo, aspettavano per dargli il benvenuto tutti i mezzadri con in testa l'amministratore Pedro Segundo Garcia. Alla vista di quel circo ambulante rimasero attoniti. Agli ordini di Ferula cominciarono a scaricare le carrozze e a sistemare tutto in casa. Nessuno prestò attenzione a un bambino che aveva circa la stessa età di Blanca, nudo, raffreddato, con la pancia gonfia di parassiti, dotato di meravigliosi occhi neri di adulto. Era il figlio dell'amministratore. E si chiamava, per differenziarlo dal padre e dal nonno, Pedro Terzo Garcia. Nella baraonda dell'installazione, dell'approccio con la casa, con l'orto, dei saluti a tutti, del disporre l'altare di Sant'Antonio e della caccia alle galline dai letti e dai topi dagli armadi, Blanca si tolse i vestiti e uscì correndo nuda con Pedro Terzo. Giocarono tra i fagotti, si infilarono sotto i mobili, si impiastrarono di baci bavosi, masticarono lo stesso pane, bevvero gli stessi moccoli e si spalmarono con la stessa cacca, finché non si addormentarono abbracciati sotto il tavolo della sala da pranzo. Lì li trovò Clara alle 10 di sera. Li avevano cercati per ore con torce, i mezzadri in squadra avevano percorso la riva del fiume, i granai, i campi e le stalle. Ferula aveva invocato in ginocchio Sant'Antonio e Esteban era sfinito a furia di chiamare. Quando li trovarono, il bambino era con le spalle a terra e Blanca stava accoccolata con la testa sul ventre rigonfio del suo nuovo amico. In quella stessa posizione sarebbero stati sorpresi molti anni dopo per loro sventura e non sarebbero vissuti abbastanza per scontarlo. Fin dal primo giorno Clara aveva capito che c'era un posto per lei alle Tre Marie e, come annotò nei quaderni in cui registrava la sua vita, sentì che aveva infine trovato la sua missione nel mondo. Non la colpirono la casa di mattoni, né la scuola, né l'abbondanza di cibo, perché la sua capacità di vedere l'invisibile individuò subito la diffidenza, la paura, il rancore dei mezzadri e l'impercettibile rumore che facevano quando voltava la faccia. Il che le permise di indovinare certe cose sul carattere e sui trascorsi di suo marito. Il padrone era cambiato, comunque. Tutti poterono notare che non andava più al lampioncino rosso. Erano finite le sue notti di gazzarra, di battaglie di galli, di scommesse, le sue violente arrabbiature e soprattutto il mal costume di aggredire ragazze nei campi di frumento. Lo attribuirono a Clara. Dal canto suo anche lei cambiò. Da un momento all'altro abbandonò il suo languore. Smise di trovare tutto molto carino e sembrò guarita dal vizio di parlare con esseri invisibili e muovere i mobili con mezzi soprannaturali. Si alzava all'alba con suo marito, facevano insieme la prima colazione vestiti, lui andava a sorvegliare i lavori e le fatiche della campagna. Mentre Ferula si incaricava della casa, della servitù della capitale, che non si abituava ai disagi e alle mosche della campagna, e di Blanca. Clara divideva il suo tempo tra il laboratorio di cucito, l'emporio e la scuola, in cui installò il suo quartier generale per distribuire medicine contro la rogna e paraffina contro i pidocchi, sviscerare i misteri del sillabario, insegnare ai bambini a cantare «Ho una vacca proprio bella, una vacca che è una fontanella», alle donne a far bollire il latte, a curare la diarrea e a candeggiare la biancheria. La sera prima del ritorno degli uomini dai campi, Ferula riuniva le contadine e i bambini per recitare il rosario. Ci andava per simpatia più che per fede. Ci andavano per simpatia più che per fede e davano alla zitella l'occasione di ricordare i bei tempi dei rioni popolari. Clara aspettava che sua cognata terminasse le mistiche litanie di Padre Nostri e Ave Marie e approfittava della riunione per ripetere le frasi che aveva udito sua madre dire quando si incatenava alle cancellate del congresso in sua presenza. Le donne l'ascoltavano ridendo e vergognose per lo stesso motivo per cui pregavano con Ferula, per non dare un dispiacere alla padrona. Ma quelle frasi infiammate sembravano loro cose da pazzi. Non si è mai visto che un uomo non possa pestare la moglie, se non gliele suona vuol dire che non le vuole bene o che non è un vero uomo. Dove mai si è visto che quello che guadagna un uomo o che produce la terra o fanno le galline sia di tutti e due, se chi comanda è lui? Dove mai si è visto che una donna possa fare le stesse cose che un uomo se la donna è nata? Se la donna è nata con la vulva e senza testicoli, per parlare chiaro, donna Clarita, aggiungevano. Clara si disperava. Le altre si davano colpi di gomito e sorridevano, timide, con le loro bocche sdentate, gli occhi pieni di rughe, incartapecorite dal sole e dalla vitagrama, sapendo in partenza che se avessero avuto la peregrina idea di mettere in pratica i consigli della padrona, i loro mariti le avrebbero ammazzate di botte. E meritate, di certo, come Ferula stessa sosteneva. Di lì a poco Esteban venne a sapere della seconda parte delle riunioni pie e andò in collera. Era la prima volta che si arrabbiava con Clara e la prima che lei lo vedeva in uno dei suoi famosi attacchi di rabbia. Esteban gridava come un ossesso, camminando avanti e indietro per la sala a grandi passi e dando pugni ai mobili, dicendo che se Clara pensava di seguire la strada di sua madre, avrebbe dovuto vedersela con un maschio ben piantato che le avrebbe tirato giù le mutandine, le avrebbe dato una sculacciata per farle passare le maledette voglie di andare in giro ad arringare la gente, che le proibiva decisamente le riunioni per pregare o per qualunque altro fine e che lui non era uno zimbello che la moglie potesse mettere in ridicolo. Clara lo lasciò strillare e dar colpi ai mobili finché non si fu stancato e dopo, distratta come era sempre, gli chiese se era capace di muovere le orecchie. Le vacanze si protrassero e le riunioni nella scuola continuarono. Finì l'estate e l'autunno coprì di fuoco e d'oro la campagna, cambiando il paesaggio. Cominciarono i primi giorni freddi, le piogge e il fango senza che Clara desse segno di voler tornare in città, malgrado le pressioni esercitate da Ferula, che odiava la campagna. D'estate si era lamentata delle sere calde trascorse a scacciare le mosche, del polverone del cortile che insudiciava la casa come se vivessero nel pozzo di una miniera, dell'acqua sporca della vasca da bagno dove i sali profumati si trasformavano in una zuppa cinese, dei maggiolini che si infilavano tra le lenzuola, degli andirivieni dei topi e delle formiche, dei ragni che venivano sorpresi a zampettare nel bicchiere dell'acqua sul comodino, delle galline insolenti che deponevano le uova nelle scarpe e cacavano sulla biancheria dell'armadio. Quando il clima cambiò, ebbe altre calamità di cui lagnarsi. La fanghiglia del cortile, le giornate più corte. Alle 5 era buio e non c'era più niente da fare se non affrontare la lunga notte solitaria, il vento e il raffreddore che lei combatteva con cataplasmi di eucalipto senza poter evitare che si contagiassero l'un l'altro in una catena senza fine. Era stufa di lottare contro gli elementi senza altra distrazione che veder crescere Blanca, la quale sembrava un antropofago, come diceva, sempre lì a giocare con quel bambinello sudicio, Pedro III. Ed era il colmo che la piccola non avesse qualcuno della sua classe sociale da frequentare. Stava imparando brutte maniere. Andava in giro con le guance lerce e con croste secche sulle ginocchia. Guardate come parla. Sembra un indiano. Sono stufa di toglierle i pidocchi dalla testa e di metterle blu di metilene sulla rogna. Nonostante i brontolii, conservava la sua rigida dignità, la sua camicetta inamidata e il mazzo di chiavi appeso alla cintura. Non sudava mai, non si grattava e aveva sempre il suo profumo di lavanda e limone. Nessuno pensava che qualcosa avrebbe potuto alterare il suo autocontrollo fino al giorno in cui sentì una puntura sulla spalla. Era una puntura così forte che non poté evitare di grattarsi facendo finta di niente, ma niente poteva darle sollievo. Infine, se ne andò in bagno, si tolse il corsetto che indossava anche nei giorni di maggior lavoro. Come ebbe sciolte le stringhe, cadde al suolo un topo rintontito che era rimasto lì tutta la mattina, cercando inutilmente di sgusciare verso l'uscita tra le stecche dure del busto e la carne oppressa della sua padrona. Ferula ebbe la prima crisi nervosa della sua vita. Alle sue grida accorsero tutti e la trovarono dentro la vasca da bagno, livida di terrore e ancora seminuda, che indicava con un dito il piccolo roditore, il quale si metteva faticosamente in piedi e cercava di avanzare verso un luogo sicuro. Esteban disse che era la menopausa e che bisognava non badarle, e non le badarono nemmeno quando ebbe il secondo attacco. Era il compleanno di Esteban, era spuntata una domenica di sole e c'era molta agitazione nella casa, perché per la prima volta avrebbero dato una festa alle Tre Marie, dai giorni dimenticati in cui Donna Ester era una ragazzina. Invitarono diversi parenti e amici che fecero il viaggio in treno dalla capitale e tutti i proprietari terrieri della zona, senza dimenticare i maggiorenti del villaggio. Con una settimana di anticipo prepararono il banchetto, mezzo bue arrostito nel cortile, pasticcio di rognoni, intingolo di gallina, fritto di grano turco, torta di biancomangiare e lumache e i migliori vini dell'annata. A mezzogiorno cominciarono ad arrivare gli invitati in carrozza o a cavallo e la grande casa in muratura si riempì di chiacchiere e di risate. Ferula si distrasse un momento per correre in bagno, uno di quegli immensi bagni della casa in cui il gabinetto era nel mezzo della stanza, circondato da un deserto di ceramica bianca. Se ne stava installata su quel sedile solitario come un trono, quando si aprì la porta ed entrò uno degli invitati, niente meno che il sindaco del villaggio, mentre si sbottonava i calzoni e un po' allegro per l'aperitivo. Alla vista della signora rimase paralizzato per la confusione e dalla sorpresa, e quando riuscì a reagire, l'unica cosa che gli venne in mente fu di avanzare, con un sorriso forzato, attraversare tutta la stanza e tendere la mano e salutarla con un cenno amichevole. Zorobabel Blanco Habansmie ha i suoi ordini, si presentò. In nome di Dio, nessuno può vivere tra gente così rozza. Se volete fermarvi voi in questo purgatorio di incivili, per quel che mi riguarda, me ne torno in città. Voglio vivere come una cristiana, come ho sempre vissuto, esclamò Ferula quando riuscì a parlare del fatto senza piangere. Ma non se ne andò. Non voleva separarsi da Clara. Era arrivata ad adorare perfino l'aria che lei esalava. E sebbene ormai non avesse più occasione di fare il bagno e di dormire con lei, faceva in modo da dimostrarle la sua tenerezza con mille piccoli dettagli ai quali dedicava la sua esistenza. Quella donna severa e così poco compiacente con se stessa e con gli altri poteva essere dolce e sorridente con Clara e talvolta, per estensione, anche con Blanca. Solo con lei si concedeva il lusso di cedere di fronte al suo dilagante desiderio di servire e di essere amata. Con lei poteva manifestare, seppure velatamente, i più segreti e delicati aneliti della sua anima. Dopo tanti anni di solitudine e di tristezza, aveva poco a poco acquietato le emozioni e sfoltito i sentimenti, fino a ridurli ad alcune poche, magnifiche passioni che la occupavano completamente. Non era fatta per i piccoli turbamenti, i rancori meschini, le invidie dissimulate, le opere di carità, gli affetti logorati, la cortesia amabile o le considerazioni banali. Ferula era uno di quegli esseri nati per la grandezza di un solo amore. Per l'odio esagerato, per la vendetta apocalittica e per l'eroismo più sublime. Ma non aveva potuto concretizzare il suo destino, secondo la sua romantica vocazione, e questo era trascorso piatto e grigio tra le pareti della stanza di una malata, tra i miseri rioni popolari, tra tortuose confessioni in cui questa donna grossa, opulenta, dal sangue ardente, fatta per la maternità, per l'abbondanza, per l'azione, per l'ardore, si era andata consumando. In quell'epoca aveva circa 45 anni, la sua splendida razza e i suoi lontani ascendenti moreschi la conservavano tersa, con i capelli ancora neri e serici, con una sola ciocca bianca sulla fronte, il corpo forte e sottile e l'andatura disinvolta della gente sana. Ma il deserto della sua vita le dava un aspetto molto più anziano. Ho un ritratto di Ferula preso in quegli anni durante un compleanno di Blanca e una vecchia fotografia color seppia stinta dal tempo in cui tuttavia la si può vedere chiaramente. Era una bella matrona, ma aveva una smorfia amara sul volto che tradiva la sua tragedia interiore. Probabilmente quegli anni accanto a Clara furono gli unici felici per lei, perché solo con Clara era riuscita a diventare amica. Fu lei la depositaria delle sue emozioni più sottili e a lei poté dedicare la sua enorme capacità di sacrificio e di venerazione. Una volta osò dirglielo e Clara annotò sul suo diario che Ferula l'amava molto più di quanto lei meritasse o potesse contraccambiare. Per questo amore smisurato, Ferula non se ne volle andare dalle Tre Marie, neppure quando esplose la piaga delle formiche, che era cominciata con un ronzio nei campi, un'ombra scura che scivolava con rapidità, mangiandosi tutto, le pannocchie di Gran Turco, le piantagioni di frumento, l'erba medica e la ginestrella.